Europa 24. E buongiorno anche da Anna Migliorati. In un periodo di disoccupazione record in Europa, rimettere l'industria al centro delle politiche europee è un obbligo imprescindibile. Parole del vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani al summit per il rilancio dell'industria in corso da questa mattina a Bruxelles con il presidente Josep Barroso e oltre 400 attori chiave tra ministri, rappresentanti ed esperti del settore. Per l'Italia anche il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi. Dobbiamo andare avanti, ha chiesto, con la definizione di un industrial compact per assicurare maggiore integrazione e coordinamento tra le diverse politiche europee. Da quando è iniziata la crisi sono stati persi quasi 4 milioni di posti di lavoro, mentre i livelli di produzione restano oltre il 12% sotto quelli pre-crisi, sono i dati di Bruxelles. E in tal senso allora va anche un nuovo portale, compriamomadeineurope.eu. È stato ideato da due imprenditori milanesi, Eleonora Piazzolla e Andrea Parise, è dedicato alle aziende che operano all'interno dell'Unione Europea. Li ha sentiti Maria Luisa Pezzali. Lo scopo di questo portale è quello di rendere responsabile sia il consumatore che le aziende, nel senso che spesso acquistiamo un prodotto senza renderci conto della provenienza e questo va a discapito delle aziende che producono effettivamente ancora nei nostri paesi europei. I mercati europei sono stracolmi di prodotti made in China, quindi questa forte concorrenza dei paesi del Far East ha dimezzato le nostre aziende. È proprio per questo motivo che abbiamo deciso di ideare questo portale, per raggruppare sia le aziende, per identificare le aziende che realmente ancora producono all'interno della nostra comunità, scrivendo effettivamente le percentuali di produzione, confezione, materia prima, packaging, che fanno parte appunto di questo processo completo di un prodotto. E una frode all'Unione Europea per 8 milioni di euro è stata scoperta dai NAS in un'operazione condotta in tutta Italia. È stata svelata una rete di carne prodotta in Francia ma dichiarata come made in Italy. Falsi marchi DOP, finanziamenti non dovuti ottenuti da Bruxelles. 73 questa mattina le aziende controllate. Bruxelles, l'avete sentito anche in GR24, contro il rapporto del Fondo Monetario Internazionale sulla Grecia. A prendere posizione è stato il portavoce del commissario Olli Rehn. È stato evitato il contagio, è sbagliato e infondato pensare che fosse meglio permettere una ristrutturazione del debito nel 2010, ha detto questa mattina. L'istituto di Washington aveva definito il piano europeo per Atene necessario, con notevoli successi ma anche notevoli insuccessi, anche a causa di supposizioni troppo ottimistiche. Europa che guarda anche i suoi nuovi confini, anche per quanto riguarda l'euro. Allora, ieri il via libera della Commissione alla Lettonia nell'euro dal 1 gennaio del prossimo anno. Vogliamo capire allora quello che si avvia ad essere il 18° paese della moneta unica, com'è, quali sono le sue caratteristiche. Era il 4 maggio 1991 e un intero paese scendeva in strada per festeggiare con fuochi d'artificio l'indipendenza dall'Unione Sovietica dopo 50 anni di dominio. Forse il 1 gennaio 2014 non ci saranno i fuochi d'artificio, ma l'ingresso della Lettonia nell'euro rappresenta una svolta storica per il paese baltico. Una nazione in grado di rialzarsi dopo la crisi del 2008-2009 che aveva portato la Lettonia sul lastrico. Una situazione critica che aveva costretto il governo a nazionalizzare la seconda banca nazionale e a chiedere un prestito di oltre 7 miliardi al Fondo Monetario Internazionale e all'UE. Ora, 4 anni dopo, la Lettonia è una delle poche nazioni europee in crescita, con un PIL annuo di oltre il 5% e un tasso di disoccupazione al 12% e in diminuzione. Pronta per entrare nell'euro, anche se il lats, la moneta locale, vale circa 1,50 euro. Anche in Lettonia, però, gli euroscettici sono pronti a dare battaglia. E il paese, appena 2 milioni di abitanti, resta profondamente diviso e influenzato dalla minoranza russofona. Il russo, infatti, è ancora conosciuto e parlato, ma è rigorosamente vietato nelle scuole dopo il referendum del 2012. Ora l'annuncio dell'ingresso nell'euro. Una nazione che guarda l'Europa, ma sa di dover fare i conti con l'ingombrante vicino russo. Riccardo Porcu, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono Federico Taddia e oggi vi segnalo una nuova tappa italiana del dialogo con i cittadini dei commissari europei. Domani, a partire dalle 11 a Palazzo Marino a Milano, la commissaria responsabile dell'azione per il clima, Connie Hedegaard, incontrerà la cittadinanza per discutere di sviluppo sostenibile e adattamento ai cambiamenti climatici. Il dibattito è aperto a tutti coloro che vorranno partecipare di persona o attraverso Twitter con l'hashtag EUDEB8. L'incontro si potrà seguire anche in diretta streaming sul sito webcast.ec.europa.eu. E anche per oggi con questo è tutto per Europa 24. La nostra finestra sull'Europa tornerà a riaprirsi, come sempre, alle 15. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.